No, questo sì, ma i suoi rapporti quindi con Umberto Bossi adesso come sono? Sinceramente sono costantemente a contatto con Umberto Bossi, come con tutti gli esponenti della Lega Nord con cui lavoro ormai da tanti anni e continuerò a farlo. Però lei ha querelato, cioè ha querelato il figlio di Renzo e... Eh no, sì, certo, no, ma per carità, avrà avuto i suoi buoni motivi, ci sarà un'inchiesta. No, come... non è che ci sarà, c'è già. C'è già l'inchiesta, sì, è stato interrogato. Non ci metteranno neanche tanto a concluderla, dopodiché verrà ripristinata la verità e certificata la verità dei fatti. Ma lei cosa chiede? Soldi? Cosa chiede? Un risarcimento danno? No, non ho chiesto più. I soldi, come è già stato più volte detto, il mal tolto dovrà essere restituito, ma non si tratta di certo del rapporto tra me e Renzo. Ma vi siete più parlati? No, immagino di no, perché? No, il signor Renzo Bossi non lo vedo dalle tristi notte vicende. Le tristi notte vicende. Avrà mai un futuro nella Lega, secondo lei, Renzo Bossi? No, ormai. Non spetta a me dirlo. La Lega è cambiata tantissimo in questi mesi ed è un partito in cui la militanza conta più di tutto. Le decisioni vengono prese nei congressi. Mi dica un'ultima cosa, ma mi dica sì o no, anche se so che adesso quando si parla di Umberto Bossi c'è sempre questo massimo rispetto, per carità. Umberto Bossi invece potrà essere il futuro della Lega, il leader della Lega, il presidente, si potrà candidare addirittura? Mancano pochi giorni per capirlo. Mancano pochi giorni per capirlo. Lei che dice? Ci saranno oltre 500 congressisti e migliaia di militanti a fare un dissago sabato e domenica, tra due settimane. Vabbè, ma secondo lei è opportuno oppure è meglio, visto che è cambiata molto la Lega? Noi siamo evidentemente in una fase di cambio generazionale. La Lega sta cambiando, sta mutando la pelle, si sta adeguando ai tempi, sta adeguando anche la sua battaglia politica, quelle che sono le problematiche quindi che dobbiamo affrontare e risolvere. Quindi questo credo che verrà fotografato da qui a pochi giorni. Grazie, allora, buona giornata. Grazie Davide. Grazie, Caparini. Buona giornata, onorevole della Lega. Noi ci fermiamo per la pubblicità e meteo, poi vogliamo parlare di un mese dal terremoto in Emilia. Sono arrivati i soldi, raccontavano ieri i giornali, 57 milioni per il terremoto dell'Irpinia del 1980. Questo succede in Italia? Un terremoto devastante per il quale sono già stati spesi 67 miliardi di euro di ricostruzione, sono arrivati altri circa 57 milioni di euro per il terremoto dell'Irpinia. E quelli dell'Emilia? Tra poco ne parleremo. 24 mattino. Allora, un mese fa c'è stato il terremoto in Emilia, devastante, con le vittime, con la ricostruzione lenta da fare, con tante imprese, tanti settori produttivi colpiti, con tante migliaia di persone ancora che sono sfollate. 800 24 00 24, magari ci state ascoltando da quelle parti, chiamateci se volete, perché vogliamo raccontare invece la storia di finanziamenti, di soldi che devono arrivare quando ci sono inevitabilmente i terremoti per ricostruire. E che sono arrivati, leggevamo sui giornali, si parlava di circa 70 milioni in generale, nuovamente arrivati per il terremoto, sì, ma il terremoto dell'Irpinia del 1980, terremoto devastante, e fanno allora, pare, secondo calcoli, oltre 67 miliardi di euro già spesi per quel terremoto, ma di queste cifre, insomma, ne vogliamo parlare. Voglio salutare l'avvocato Giuseppe Vetrano, buongiorno avvocato. Lei fa parte del gruppo di lavoro Terremoto 80, è stata chiamata la commissione istituita presso il Ministero delle Infrastrutture, che abbiamo letto di questa cifra stanziata o che dovrebbe essere stanziata a giorni, a momenti, o è già stata stanziata, di questi milioni di euro per il terremoto dell'Irpinia. Ci spieghi, perché ovviamente un italiano che legge queste notizie rimane, come dire, un po' sorpreso. Per la verità questa somma è stata stanziata, è la somma di leggi finanziarie non mai sfondi mai arrivati a Virpinia, ma sono leggi finanziarie che risalgono al 2000, al 2003, al 2006. Sì. Quindi parliamo di risorse che avrebbero dovuto già far parte del patrimonio delle zone terremotate di Virpinia e che purtroppo per ritardi burocratici nel 2012 ancora devono essere erogate ai comuni terremotati dell'Irpinia. Quindi non sono risorse. Di quanto si tratta di queste cifre? Perché io ho letto forse 51 milioni di euro per la zona più colpita nel napoletano, ma poi ho l'Irpinia e poi ci sono. Quant'è il totale di queste cifre che arriveranno alla fin fine? Dunque, il totale di queste somme che arriveranno è 80 milioni di euro. 80 milioni di euro. Questa somma deve essere, suddivisa tra tra tutti i comuni della Campania. Sì, tra tutti i comuni. 80 milioni di euro. Ma com'è possibile? Cioè, capisce che ieri i giornali titolavano: arrivano i soldi per il terremoto, sì, ma in Irpinia. Per carità, è giusto aiutare la ricostruzione, in alcuni casi la ricostruzione è stata fatta e finita, c'è un sindaco tra l'altro che ci sta ascoltando, il sindaco di Scisciano in provincia di Napoli, che magari ci racconterà qualcosa, si chiama Patrizio Napolitano e lo saluto, buongiorno sindaco. Buongiorno a lei. Ecco, avvocato Vetrano, per esempio, so che il caso proprio di Scisciano è abbastanza incredibile, cioè soldi che sono stanziati ma che di fatto non servono, non servirebbero. Io devo dire, la commissione che lei ha citato è una commissione che ha istituito il Ministero e che ha terminato i propri lavori, quindi ormai a questo lavoro per me appartiene al passato. È una relazione conclusa, depositata presso gli uffici del Ministero, e questa relazione affronta un po' tutti i temi del terremoto, della ricostruzione abitativa del 1980, e la commissione pone in evidenza un fatto particolare, e cioè che nel 1980-81, quando il moto di solidarietà, la volontà di intervenire in queste zone drammaticamente colpite dal terremoto era altissima, parliamo purtroppo di 30 anni fa, si fece forse un errore capitale che l'Emilia, a mio avviso, non deve ripetere, cioè quello di allargare enormemente l'area danneggiata, l'area colpita dal sisma. Sì, lei dice un errore, avvocato, oppure fu fatto, si infilarono comuni che non c'entravano quasi niente, magari avevano avuto una crepa, un muro, no? Un atto politico. Un atto politico. Un atto all'italiana, diciamo così. Era anche un'altra era storica, cioè l'epoca nella quale la Campania era comunque una zona che doveva crescere, quindi si vide il terremoto come un'occasione per fare sviluppo in una zona depressa. Sì. E in quell'occasione però appunto, oltre a pervenire in finanziamenti per attività industriali, per attività emergenziali, per gli istituti di culto, per tutto quello che è purtroppo una tragedia come il terremoto determina, si stabilì di allargare l'area del terremoto, e lei pensi che i comuni coinvolti sono 687. 600. E quelli veramente colpiti, avevano... Ovviamente ho rispetto tantissimo per tutti i rappresentanti dei comuni, eccetera, ma teniamo presente, la provincia di Avellino, che fu poi quella veramente devastata dal terremoto, ha avuto 18 comuni completamente rasi al suolo e 99 danneggiati. Se a questo è il terremoto, se a questo aggiungiamo pochi comuni del Salernitano e pochi comuni del Beneventano, ma pochissimi comuni del Beneventano. Il resto? Questa era l'area del sisma. Per esempio, ci dica se il sindaco di Scisciano, credo che arriveranno 200.000 euro a Scisciano, è sindaco napolitano, è così, 200.000 euro sono stati istituiti. Dobbiamo parlare al momento, io non sono d'accordo con quello che dice l'avvocato, perché i danni che ci sono stati relativamente agli anni nel 1980. per i soldi che parla l'avvocato. Per la verità non abbiamo avuto ancora nessuna lira di questi soldi, quindi nessun euro abbiamo avuto di questi famosi finanziamenti, progetti che la commissione del Ministero dell'Infrastruttura pare che abbia destinato a questi comuni. Al momento rimangono soltanto chiacchiere. E vabbè, diciamo però sì, di chiacchiere, beh no, di scritto c'è una relazione della commissione. Vabbè, c'è la relazione della commissione. Ma io le chiedo questo, sindaco, mi scusi, 200.000 euro dovrebbero essere quelli iscritti. Questi 200.000 euro, onestamente, lei da sindaco di Scisciano, servono come ricostruzione post terremoto dopo 30 anni? Allora, io già ho fatto una dichiarazione giornale, ritengo che assolutamente no, questi soldi non servono per la ricostruzione post terremoto. Io ho detto a qualche giornalista che mi ha chiamato che eventualmente questi soldi, ed parliamo prima del terremoto in Emilia, questi soldi eventualmente li avrei spesi per opere pubbliche o per il sociale, quindi perché credo che dopo 32 anni dal terremoto dell'80 questi soldi non sono più utilizzabili perché non ci sono più case che vivono disagi abitativi in seguito, cioè, perché gli effetti del terremoto fortunatamente non ci sono più, essere spesi per il terremoto dell'Emilia. No, ecco, appunto, quindi lei dice ho capito, ma capisce, cioè voglio dire, io ringrazio la sua onestà intellettuale nel dire non servono a niente per il terremoto dell'Irpinia questi 200.000 euro, non dobbiamo più ricostruire le case per il terremoto dell'Irpinia, però sa poi com'è la burocrazia, però arrivano, ormai non si può far niente, sono destinati, sono istituiti, sono messi a bilancio, arriveranno, lei li può usare per fini sociali e questo le va dato atto, però in Emilia che ci ascoltano dicono ma è noi che i partiti dovevano pure togliersi una tranche per darci soldi, vedere che effetto fa, vedere che 80 milioni di euro ancora vengono messi insieme nel calderone dei 67 miliardi di euro già spesi per il terremoto dell'Irpinia. Tra l'altro ci scrive sempre Matteo Salvini, che ci segue sempre, e mi scrive che farà un esposto a Bruxelles su questi soldi. E poi aggiunge: qualcuno capisce, non capisce perché molta gente del nord dell'Italia si vuole staccare. Vabbè, questo è Salvini secessionista. Al traffico e rientriamo. Allora, 800240024, avete sentito, vi stiamo raccontando con l'avvocato Vetrano, che fa parte del gruppo di lavoro Terremoto 80, che è stato istituito al Ministero delle Infrastrutture, in questa relazione, a dire devono arrivare stanziati già dal passato, finanziari 2002, 2003, 2006, 80 milioni di euro per il terremoto in Irpinia del 1980. C'è con noi anche il sindaco di Scisciano, Napoli, che dice: a me qua dovrebbero sulla carta arrivare 200.000 euro, ma lo ammetto, non servono, se li posso usare per cose di pubblica utilità. Per il terremoto certo non servono. Io non so che effetto faccia. Voglio ringraziare, lo saluto, il sindaco di Finale Emilia, Fernando Ferioli. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, questo è il contesto, diciamo, lei non ha potuto sentire, gliel'ho riassunto per lei che ci ha raggiunto in questo momento. Cioè, che effetto le fa vedere, leggere sui giornali che arrivano i soldi nelle Irpinia, dove già si sono spesi 67 miliardi, e voi di cosa avete bisogno invece? Noi dobbiamo ripartire, l'ho detto da subito, noi abbiamo bisogno di avere una risposta immediata su quello che è stato un decreto legge che ha disposto 2 miliardi e mezzo per il 2% del PIL che si produce in quest'area, sono stati disposti 2 miliardi e mezzo in 3 anni, quest'anno 500 milioni, 1 miliardo il prossimo anno, nel 2014 un altro miliardo, ma la cosa problematica è che uno si preannuncia come almeno 5 miliardi di danni, almeno. Sì. Senza contare che il problema è che tutte le attività produttive, che io dico da subito, sono ferme e saranno ferme per mesi. Se gli imprenditori, per non farli scappare e non far diventare terremotati anche disoccupati, che è una cosa che sarebbe devastante, perché già siamo stati devastati da questo territorio, noi abbiamo bisogno di capire quando arrivano e quanti arrivano, ma soprattutto io chiedo da un mese a questa parte una defiscalizzazione forte per fare in modo che i piccoli, soprattutto i piccoli, gli artigiani, possano iniziare con le attività produttive. Subito. Ma che effetto le fa, sindaco, vedere che invece arrivano i soldi ma in Irpinia? Cioè leggere, l'ha letto anche lei questi titoli di giornale? Io guardi, adesso non ho tempo, mi dispiace dirlo, non ho molto tempo per leggere il giornale e guardare TV, questo mi dispiace dirlo. Me l'hanno detto, qualcuno me l'ha detto, mi ha detto, poi ho sentito da lei adesso 67 miliardi di euro, 67 miliardi questi spesi dall'80 oggi, ma adesso arriveranno 80 milioni, ce l'ha detto, e qua l'avvocato Vetrano che la sta ascoltando ha fatto parte di questa commissione. Ecco, io mi chiedo, in un momento come questo, dopo 32 anni la burocrazia romana, ma del governativa, manda 80 milioni in una zona che per l'amor di Dio è stata devastata, giusto, è stata ricostruita, ha tutti i suoi problemi, ma in un momento come questo in cui rischiamo di perdere migliaia e migliaia di posti di lavoro di una zona che era il 2% del PIL, perché adesso, come ho detto, molte delle aziende sono ferme, chiuse, hanno bisogno di risposte. Io mi chiedo, ma mi meraviglio anche che la burocrazia, non la burocrazia, io non so che giri fanno, la cose più logiche, più immediate, che in qualche modo possono essere anche capite dalla gente, non vengono fatte. Guardi, qua c'è il sindaco di Scisciano, in provincia di Napoli, sindaco, qua sta parlando con il sindaco di Finale Emilia, Fernando Ferrioli. Lei ha detto, sindaco napolitano, che sarebbe disposto, cioè se questi soldi servirebbero per l'Emilia, a voi per il terremoto non servono, dovessero arrivare, perché no? Io lo so, non vorrei fare della carità pelosa, voglio dire, ma perché li giri al sindaco di Finale Emilia? Per il suo concetto. Vi ripeto, noi materialmente non li abbiamo ancora visti, ma questo l'abbiamo capito. Arrivare, io ritengo che praticamente non dovrebbero essere spesi per il terremoto, ma per e lo faccia sociali, perché onestamente non ci sono più situazioni da dover intervenire post terremoto. Ma io posso, prima di tutto, saluto il sindaco di Finale Emilia e volevo dire che come comune, nel nostro piccolo, abbiamo praticamente fatto una raccolta per comprare presso le aziende del nord del parmigiano reggiano, per poter finanziare questi imprenditori questo va bene, è una cosa meritoria, ma sindaco, questi 200.000 euro, adesso ripeto, non voglio fare queste cose perché dovrebbe dare la politica una risposta. Essere dirottati per il terremoto dell'Emilia. Ma così non si può fare, cioè non è che se vengono istituiti da una commissione e dati a voi, non è che i superiori ai comuni e lo Stato, che intervenga lo Stato, e per me tranquillamente potrebbe dirottare tutti questi 80 milioni di euro che lei dice che sono stati stanziati, che l'avvocato dice, per me onestamente dessero all'Emilia. Il terremoto ha creato dei danni realmente, l'urgenza in Emilia vanno spesi in Emilia. Esatto, avvocato Vetrano, mi faccia capire, è la politica che dovrebbe dare una risposta, non certo lei come membro di questa commissione. Questi 80 milioni ormai sono stanziati, andranno lì in Irpinia per questi 687 comuni. Lei l'ha detto già con chiarezza, però è giusto precisare questo. Solo, innanzitutto è verissimo quello che dice il sindaco di Scisciano, cioè nel 1980 i danni ci furono anche ai comuni. Diciamo, ora però no, fortunatamente non servono più. Grazie al cielo le situazioni sono molto cambiate. I comuni terremotati veri hanno ancora un'esigenza di risorse, perché le risorse erogate nei primi 20 anni purtroppo sono state, e questo va detto anche ancora, al titolo di Finale Emilia, perché è importante questo, perché il terremoto irpino è, come dire, un grande insegnamento per tutto il paese, anche per come funziona purtroppo lo Stato. Allora anche noi dovevamo avere i soldi per lo sviluppo, dovevamo avere i soldi per l'emergenza, cioè, poi questi soldi ci sono stati all'inizio, poi la macchina, diciamo, dei finanziamenti naturalmente. Però mi risponda a questo, perché io avvocato devo chiudere, questi soldi ormai devono essere stanziati per l'Irpinia. Sono destinati da leggi finanziarie, cioè sono leggi, dello Stato che con ritardo arrivano a destinazione. Quindi fa una legge per dire che cancella tutto. Non può fare nulla. Quando gli arriveranno questi soldi, ripeto, con un ritardo di 10 anni, lui li avrà dallo Stato, e quindi è lo Stato che con una legge dovrebbe modificare la legge. Ma vi rendete conto, signor, io vi devo ringraziare tutti, ma questa è la situazione, cioè non si può neanche intervenire, sono stati stanziati nel 2003-2006, quindi o lo Stato modifica oppure questi soldi, 80 milioni, vanno in Irpinia, non c'è nulla da fare. Va bene, buon weekend, ci sentiamo lunedì. Verde Dentro, nuova elettricità per il tuo lavoro. Repower, l'energia che ti serve. Vi ha presentato 24 Mattino.